America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, beh, è qualche tempo che non affrontiamo uno dei nostri punti di forza, cioè solo andata, quelle persone che a un certo punto dall'Italia decidono di prendere un biglietto di solo andata per venire negli Stati Uniti, affrontare l'avventura americana, viverla al massimo, cercare fortuna, sfondare la nuova frontiera. E ho con me ai microfoni di America 24 Massimiliano Gioni. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno. Intanto una breve descrizione riassuntiva. Chi è Massimiliano Gioni? Beh, Massimiliano Gioni è il direttore artistico del New Museum, che è uno dei nuovissimi musei qui a New York, è diventato rapidamente uno dei più importanti, è sulla Bowery, e non solo, ma è stato scelto per essere il direttore artistico della Biennale di Venezia del 2013, che aprirà alla fine di maggio. Bene, ecco, Massimiliano, ho dato un rapidissimo affresco, ma adesso entriamo più nel dettaglio, perché com'è che lei, da Buster Sizio, diventa direttore artistico di uno dei musei più interessanti e più importanti oggi a New York? Ma cioè, ci sono di mezzo circa una decina d'anni di lavoro più o meno, perché a New York io sono venuto la prima volta alla fine del 1999 e sono venuto come redattore di una rivista d'arte contemporanea italiana che si chiama Flash Art, che è la più importante rivista d'arte contemporanea in Italia e che da sempre ha un ufficio a New York e un redattore a New York. Quindi ecco, scusi, 99. Ma lei dunque arriva nel 99, quanti anni ha nel 99? Nel 99 avevo 26 anni, dopo aver lavorato 2-3 anni come redattore dell'edizione italiana ho chiesto di essere mandato a New York, così è stata un'avventura, devo dire, degna veramente da romanzi di John Fante, perché sono venuto, il mio stipendio era abbastanza simbolico, tristemente, e quindi mi arrabattavo facendo anche altri lavori, oltre a quello del redattore traducevo anche libri, romanzi rosa per l'Harmony, come si chiamava all'epoca, e così mi sono mantenuto appunto per più o meno fino al 2003. Vivevo ospite come una specie di ragazzo alla pari di una generosa curatrice e critica d'arte che mi ha lasciato stare a casa sua per 3 anni in una stanzetta alla Harry Potter. Ma poi c'è sempre un effetto curioso per noi italiani che andiamo all'estero, che una volta in cui mettiamo piede a New York o all'estero, ecco che l'attenzione anche dell'Italia si risveglia, e quindi paradossalmente dopo 4 anni fatti a New York sono ritornato a lavorare in Europa per 2-3 anni, perché gran parte dei miei incarichi a quel punto erano in Europa, dove iniziavo a lavorare con la Fondazione Trussardi a Milano e con varie biennali e istituzioni in Germania e in Spagna. Dal 2006 sono tornato con un visto O1 che in teoria è per meriti o talenti speciali, ma non so se è meritato o meno. Ecco, comunque c'è un avanti e indietro, e quindi insomma questa America evidentemente ha avuto un potere suggestivo nei suoi confronti. Cominciamo dalla prima molla. A 26 anni lei a un certo punto dice: vado a New York. Perché? C'ero passato perché io ho vissuto per un po' di tempo in Canada quando ero ancora più giovane. La scelta di tornarci e di venirci a lavorare era perché mi sembrava che fosse ancora, e lo è tuttora anche se il mondo è cambiato, fosse il centro dell'arte contemporanea, e quindi dopo essermi misurato con diciamo il sistema dell'arte italiano volevo provare a misurarmi con il sistema dell'arte mondiale, e New York era il punto di partenza dove farlo. Ecco, ci racconti che cos'è lavorare a New York dentro un museo d'arte contemporanea? Quello che faccio significa cercare di pensare alle mostre, sia agli artisti che vogliamo presentare, alle mostre che vogliamo creare, quindi di solito è un dialogo molto serrato con gli artisti e con colleghi che lavorano con me al museo, per cercare di immaginare mostre che in un certo senso indaghino questioni o soggetti o problemi che siano urgenti e importanti oggi, non solo nel mondo dell'arte contemporanea, ma speriamo nel mondo della cultura in generale. Ci dia un paio di esempi, a cosa sta lavorando adesso, cosa sta progettando? Ora in realtà gran parte della mia attenzione è sulla Biennale di Venezia, però abbiamo inaugurato da qualche mese fa una mostra al New Museum sull'arte degli anni 90 e in particolare guardando alla storia dell'arte dal punto di vista di un solo anno a New York nel 1993, e quindi in quel caso si è trattato di fare molta ricerca, ricostruire quali erano le mostre, le opere d'arte presentate in questa città 20 anni fa, ed è emerso un panorama della storia dell'arte di 20 anni fa, ma anche uno spaccato della cultura di una New York che era molto diversa, che era la New York prima di Giuliani, quindi una Manhattan ancora un po' più aggressiva e ruvida, e di un momento nella storia di questa nazione anche molto segnato e piegato dall'AIDS, o d'altra parte invece anche dalle trasformazioni portate dal governo Clinton, che proprio nel 93 andava al potere e segnava anche un cambiamento del pendolo politico dopo anni di governo repubblicano, un nuovo governo democratico. Era anche il momento di un'altra recessione, quindi ci sembrava ci fossero molte somiglianze al tempo che viviamo oggi. Tornerebbe indietro, cioè lo spirito d'avventura del 1999, quando lei arriva in America, lo rifarebbe? Lo consiglia? Ma sì, lo consiglio. Ora il mondo, anche quello dell'arte, è cambiato tantissimo, nel senso che ci sono molti più centri. Io ho un caro amico che è andato ad aprire una galleria a Hong Kong, e ovviamente l'Asia sta scompaginando, riconfigurando le mappe del mondo, quindi chissà se a 10-15 anni di distanza la scelta di New York sarebbe stata la prima. Però devo dire che New York rimane un centro gravitazionale di straordinaria forza, è un posto dove mercato, ma anche cultura, arte e forza finanziaria, ma forza creativa sono intimamente legate, o comunque si parlano l'un l'altro. E poi io devo dire, ho vissuto in tanti posti, anche a Berlino e in giro un po' per il mondo. Confesso che una cosa che rende New York straordinaria è il colore del cielo, che anche quando è molto molto squattrinato e a vivere come ragazzo alla pari, ti dà insomma la fiducia per andare avanti. In altre città non è così, il clima non è così ottimista. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di Downtown, abbiamo parlato di Bowery, abbiamo parlato del New Museum, e dunque ci ispiriamo a Downtown e a Patti Smith, che ha occupato Downtown prima che fosse di moda, con Because the Night. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!